Città Fregico Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, mercoledì 14 giugno 2023, siete all'ascolto di Radio Città Fugico, 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, più naturalmente la possibilità di ascoltarci attraverso l'etere con l'apposita app che potete scaricare dal sito radiocittafugico.it. Città Fugico Live Club, la trasmissione che inizia sempre con questa sigla, Laila, Derek and the Dominos, e che si propone di farvi ascoltare un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25, una musica live di tutti i generi e di tutte le epoche. E come sempre, o quasi, ma praticamente sempre, Città Fugico Live Club inizia con una novità, e oggi abbiamo una novità un po' particolare, perché in realtà non è una novità. Andiamo subito a spiegare questo arcano mistero. L'album che ci ascolteremo, che vi propongo quest'oggi come novità, è un album che si chiama Live in Santiago, ed è un album live di una band che si chiama Bill Bruford's Heartwork, che è la band che Bill Bruford, grandissimo batterista del quale parleremo più tardi, fondò nel 1986 e che è durato fino al 2008, anno in cui poi all'inizio del 2009 Bill Bruford, il leader della formazione, decise di dargliela su con la musica, di andare in pensione praticamente, e quindi mise fine alla band Earthwork. Poi naturalmente, come sempre accade, Bill Bruford ha fatto un po' di concerti sparsi qua e là, ma ufficialmente è pensionato. Ebbene, quest'album, che ripeto si chiama Live in Santiago, è stato compreso in un mega cofanetto di 20 CD che uscì nel 2019, che si chiama Complete. Sono 20 CD e DVD che racchiudono tutta l'intera discografia di Lee Earthwork, che e anche due concerti inediti. Uno di questi è appunto quello registrato a Santiago, che è stato poi riproposto anche singolarmente, cioè non importa più acquistare il cofanetto di 20 CD, ma si può comprare questo, che è un CD più DVD, che naturalmente con un esborso minore dalle nostre tasche. L'album è stato registrato il 29 settembre del 2002 al Teleton Theater di Santiago, in quel del Cile appunto, con questa band che in pratica è una band jazz. Dopo varie vicissitudini fra virgolette di Bill Bruford, del quale parleremo dopo, e invece si è dedicato al jazz, vicissitudini in campo rock, poi alla fine della carriera si è dedicato al jazz, che era la sua grande passione. Tim Garland al sax, Steve Hamilton alle tastiere, Mark Hodgkins al basso e Bill Bruford alla batteria erano i componenti di questi Bill Bruford's Heartwork il 29 settembre del 2002, quando fu registrato questo live in Cile, dal quale ci andiamo ad ascoltare un brano che si chiama Modern Folk. E questo era il folk moderno di Bill Bruford's Earthworks, i lavori terrestri di Bill Bruford, Modern Folk, il pezzo che ci siamo ascoltati dall'album Live in Santiago, che è la novità che vi propongo quest'oggi e che vede in azione come leader e come batterista naturalmente questo grande grande personaggio che risponde al nome di Bill Bruford. E per quel che mi riguarda, da batterista mancato quale sono, è sempre stato uno dei miei grandi idoli, e visto che ha una carriera composita e molto lunga, oggi ho pensato di fare una monografia su di lui per la prima volta, credo ormai da tantissimo tempo. Una monografia non su una band, ma su un musicista, appunto Mr. Bill Bruford. Lui viene da Seven Hooks nel Kent, naturalmente in Gran Bretagna, e è iniziato a suonare giovanissimo in maniera professionale. All'età di 18 anni la sua band, che allora si chiamava The Noise, ebbe un ingaggio per 6 settimane al Piper a Roma, e quindi arrivarono tutti e cominciarono a suonare, ma poi lui non era soddisfatto della musica che suonavano e di come suonavano i suoi compagni di allora, e abbandonò la band, fuggì addirittura praticamente da Roma e in autostop tornò a casa, per poi formare nel 1968 quella grandissima band che risponde al nome di Yes. Yes sono stati formati appunto in origine da John Anderson, Chris Squire, Tony Banks, Peter Banks e Tony Kaye, scusate, e appunto da Bill Bruford. Questa formazione è quella che ha iniziato, poi dopo, da subito dal primo album ci sono stati dei cambiamenti, ma Bill Bruford è stato con loro dal 68 al 72, dove lasciò per entrare nei King Crimson, di questo ne parleremo dopo, e poi in quella grande reunion totale di tutti i musicisti che avevano fatto parte degli Yes, che si chiama appunto Yes Union, dal 1991 al 1992. Andiamo ad ascoltarci questi Yes, un album fondamentale e grandioso, direi forse non il più bel album live di sempre, che diciamo che è una bella lotta insieme a One More From The Road di Lynyrd Skynyrd, ma sicuramente un triplo album in long play veramente spettacolare. Le canzoni con Bill Bruford in questo triplo album sono solamente due, perché le registrazioni furono fatte durante due tour, uno nel quale c'è Bill Bruford e l'altro nel quale era già arrivato Alan White. Andiamoci ad ascoltare però un brano, perché tra l'altro è lunghissimo, di questi due che compaiono, uno è Roundabout e l'altro è questo che ci andiamo ad ascoltare, registrato all'Academy of Music di New York City il 19 febbraio 1972, si chiama Perpetual Change, loro sono gli Yes. Every single way Come avevo detto, nell'estate del 72, Bill Bruford abbandonò gli Yes, entrò negli King Crimson e nell'ottobre era già in concerto con loro a presentare quello splendido album che si chiama Lark Song in Espic, del quale ci siamo ascoltati proprio la prima parte. È una registrazione che fa parte della serie Collectors Club, King Crimson Collectors Club, il numero 20, ed è un po' particolare perché nella formazione vede in questo caso anche Jamie Moore, che è un percussionista pazzo furioso, e infatti durò pochissimo all'interno dei King Crimson, visto che Robert Fripp è uno abbastanza serio, diciamo così, anche se ultimamente si lascia un po' andare con dei Weekend un po' goliardici. Comunque questo è stato registrato al Zoom Club di Francoforte il 13 ottobre 1972, e Lark Song in Espic Part 1. E purtroppo a causa del tempo, che è sempre molto ristretto, ho dovuto fare delle scelte perché Bill Bruford ha suonato con un sacco di gente. King Crimson, come sapete, sono molto legati alle bizzarrie di Robert Fripp, che ogni tanto li scioglie, poi li riforma, poi li riscioglie ancora, poi li riforma con altre persone, eccetera. La sua tenuta, diciamo così, con i King Crimson durò dal 1972 al 1997, naturalmente con le interruzioni del caso, interruzioni nelle quali appunto Bill Bruford suonava con altre persone, tipo nel 74, nella fine del 74, 1900 sempre, suonò una parte del tour europeo con i Gong, perché il batterista dei Gong era stato imprigionato per possesso di droga alla frontiera. E nel 75 invece partecipò per molte date al tour dei National Health, una grande band di Canterbury, e poi ha suonato con i Genesis nel tour americano ed europeo del 1976, che è documentato anche da due brani, che sono uno su Seconds Out, che è The Cinema Show, l'altro è su Three Sides Live del 1982, che però vede la registrazione appunto del 1976, Watch of the Sky, un grande medley. Nel 1977 pubblicò il suo primo album live, si chiama Feels Good to Me. Dopodiché formò una band che si chiama UK, come United Kingdom, e nel quale però rimase solamente un anno, poi l'abbandonò. La band vedeva John Wetton, Alan Holdsworth e Eddie Jobson, e la lasciò per differenze musicali. Poi, come detto prima, partecipò alla reunion degli Yes, e poi formò una band con un altro grande personaggio che si chiama Tony Levin, bassista eccelso, David Thorne alla chitarra e Chris Botti alla tromba. La band si chiama Bruford Levin Upper Extremities ed è una band che è un po' sperimentale, è un bel po', però ci sono anche dei pezzi veramente molto intriganti. Non sono durati molto, dal 1998 al 2000, e hanno fatto solamente due album, uno in studio e uno dal vivo, che è quello che ci andremo naturalmente ad ascoltare. Poi dopo proseguì la carriera con Bill Bruford's Earthwork, e poi, come dicevo all'inizio della trasmissione, il 1 gennaio del 2009 annunciò il proprio ritiro. È una band un po' anomala questa, che appunto si chiama Bruford Levin Upper Extremities, detti anche Blue, proprio perché sono le iniziali del nome, Bruford Levin's Upper Extremities, nel senso di alte estremità, le braccia in pratica, penso che voglia più o meno dire questo. Appunto, oltre ai due leader c'è David Thorne alla chitarra e Chris Botti alla tromba, per una musica molto molto intrigante, molto molto particolare, che è quella che ci andiamo ad ascoltare in questo momento. L'album si chiama Nights ed è stato registrato in diverse località. Questo in particolare che ci andiamo ad ascoltare, pur essendo registrato al Bottom Line di New York City il 12 marzo del 1998, parla di un picnic sul Vesuvio, proprio così, si chiama Picnic on Vesuvius. Loro sono Bradford Levin Upper Extremities, dal vivo naturalmente in quel di New York City. E la scorpacciata o l'indigestione, fate un po' voi, di Bill Bruford non è terminata, perché naturalmente la seconda parte di Città Fujiko Live Club inizia con la novità che vi propongo quest'oggi, vale a dire Bill Bruford's Earthworks, che hanno pubblicato questo Live in Santiago, un album in realtà del 2019, scusate, che era però uscito solamente in un mega cofanetto di 20 album. Invece da qualche settimana si può trovare anche in versione singola, nel senso che questo concerto, che all'epoca era inedito, può essere acquistato DVD e CD allegato, anzi il contrario, CD e DVD allegato. Il tutto, come dicevo, si chiama Live in Santiago perché è stato registrato nella città cilena il 29 settembre del 2002. Il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Footloose and Fancy Free, che è il titolo di uno degli album più conosciuti appunto di Bill Bruford's Earthwork. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, sono i brani registrati nel corso della giornata odierna, 14 giugno, nel trascorrere degli anni. Ancora una volta tantissime cose e ancora una volta il criterio di scelta per i vari brani è quello di un brano, di un pezzo per ogni decade. E andiamo a iniziare con una cosa un po' particolare. Nel 1972 fu pubblicato solamente in Giappone un doppio album in vinile, chiaramente, che si chiamava Live in Japan, da parte di una band che si chiama tuttora Chicago. Era una cosa abbastanza frequente all'epoca, la Sony Japan aveva il potere, diciamo l'autonomia di poter pubblicare delle cose solo per il mercato giapponese, però alcune copie si trovavano in giro, infatti un mio amico l'aveva, pagò una cifra pazzesca, ma lui se lo poteva permettere. Però recentemente, nel 1996, è stato pubblicato in doppio CD in tutto il mondo, ed è questa la cosa che vi farò ascoltare. Il tutto da parte di questa band che credo non abbia bisogno di presentazioni, perché è una band che è in giro dal 1968. Prima si chiamava Chicago Transit Authority, poi ci fu un'azione legale da parte dell'autorità che regola i trasporti nella città dell'Illinois e accorciarono il nome solamente in Chicago. E naturalmente è un gran concerto, ci sono alcuni brani anche cantati in giapponese, un paio, ed è molto molto bello. Sono i veri Chicago, quelli pimpanti della prima parte della loro vita, perché poi negli ultimi decenni oramai, si posso dire, sono diventati veramente bulls. Ci andiamo ad ascoltare, era il 14 giugno del 1972, Osaka, Giappone, Beginnings il pezzo che vi propongo. Density is the key. 14 giugno 1972, Chicago in concerto a Osaka. Questo che ci siamo ascoltati era Beginnings. Passiamo agli anni 80 con una registrazione del 1981 da parte di un personaggio che spero non abbia bisogno di presentazioni. Si chiama James Newell Ostenberg Jr., ma molti di noi, anzi tutti noi, lo conosciamo meglio come Iggy Pop. Viene da Ann Arbor nel Michigan e ha avuto all'inizio della carriera, lo sapete benissimo, insieme agli Stooges, collaborazione con David Bowie, ha fatto tantissime cose, non tutte a livelli siderali, diciamo così, ce ne sono alcune che sono un po' raffazzonate, ma comunque questa è un'opinione personale. La cosa che ci andiamo ad ascoltare fa parte di un doppio dischetto che si chiama Nuggets, Buried Treasure, cioè le pepite del tesoro nascosto. È un doppio album che racchiude registrazioni live e in studio, che è una specie di, è un'antologia in pratica, però contiene anche parecchi brani inediti, tipo quello che ci andiamo ad ascoltare. È stato registrato al Metropol di Berlino, dove appunto Iggy Pop ha abitato per qualche tempo insieme a David Bowie, e era appunto il 14 giugno del 1981. Il pezzo si chiama Flesh and Blood, Iggy Pop. Evidentemente in quel di Berlino anche Iggy Pop era stato contagiato dalla mania elettronica. Questo pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Flesh and Blood, come ha detto lui diverse volte, ed è stato registrato al Metropol di Berlino in Germania il 14 giugno del 1981. Ecco, questo è l'hip hop che conosciamo meglio. Ma comunque andiamo avanti, arriviamo agli anni 90, sul finire degli anni 90, 1998, insieme a una band che penso conosciate bene, probabilmente meglio di me, si chiamavano CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti. Naturalmente sapete che derivavano dai CCCP Fedeli alla Linea, poi lo scioglimento, la divisione per meglio dire fra Lindo Ferretti e il resto della band si trasformarono in Per Grazia Ricevuta. Sono tuttora in giro con una band che si chiama Post CSI, quattro membri originali dei CSI, chiamiamoli così, più Angela Baraldi alla voce e Simone Filippi alla batteria. Fra parentesi, proprio in questi giorni, in occasione di non mi ricordo quale mostra, pare che ci sia un riavvicinamento fra Giovanni Lindo Ferretti e gli altri CSI, anzi gli altri CCCP addirittura, e non è escluso che ci salti fuori qualcosa. Nel 2001, furono pubblicate due antologie quasi contemporaneamente che si chiamavano Noi Non Ci Saremo, volume 1 e volume 2, e comprendeva pezzi dal vivo, pezzi in studio, due cose veramente molto molto interessanti e molto molto accattivanti. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Unità di Produzione, la conoscerete sicuramente, uno dei loro brani più famosi, registrati a Mostar, esattamente Mostar Ovest nella Bosnia Erzegovina del 1998, che non era il periodo migliore per quella zona. E mi apro solamente una piccola parentesi per dire innanzitutto che sono come sempre molto contento di trasmettere cose italiane, e per annunciare che la prima parte della prossima trasmissione di mercoledì prossimo 21 giugno sarà interamente italiana, quindi non mancate, perché è una cosa molto molto rara per quel che mi riguarda, lo ammetto, ma sarà fatto così. Andiamo a CSI, il brano si chiama Unità di Produzione, 14 giugno 1998, Mostar. Sollevare, che la terra è pesante, pesante da portare, bassa, troppo bassa, preme e schiaccia, fucina di potere temporale. Fucina di potere temporale. Unico abominio clericale, delirio onnipotente, dominio che sovrasta, efficienza di netto, burocratica casta, potenza del pesante, preme compatta, schiaccia, preme compatta, schiaccia, preme compatta, schiaccia. Bolscevico, l'età del bruci, il mondo casca in terra, età del tutto giù nuova la terra, rosso fiammante. Acerba di passione, rosso fiammante, ma senza età matura, marcia in postura, ma senza età matura, marcia in postura, veniglio onnipotente, dominio che sovrasta, efficienza di netto, burocratica casta, potenza del pesante, preme, combatta, schiaccia. Talking out of the left side of this Don't know what he sees yet, seeing is believing. Don't know what he sees yet, seeing is believing. Don't know what he sees yet, saying is believing. Don't know what he sees yet, seeing is believing. Don't know what he sees yet, saying is believing. Don't know what he sees yet, seeing is believing. Don't know what he sees yet, yeah, I see it. Viene dal New Jersey, si chiama Pete Yorn e come molti musicisti provenienti dal Garden State è fortemente influenzato da Bruce Springsteen, non potrebbe essere altrimenti, e infatti si nota anche nel brano di apertura di questo album, il brano che vi ho proposto, appunto un medley fra Dancing in the Dark e Mary, un brano appunto di Bruce Springsteen e un brano di Pete Yorn. Pete Yorn è un musicista che è partito, ha pubblicato nel 2001 un album che si chiama Music for the Morning After, scritto tutto attaccato, cioè musica per il mattino dopo, che ha avuto un successo strepitoso che però non è più riuscito a abissare, nel senso che ha avuto dei buoni album ma mai di successo e mai qualitativamente alti come questo. Però è un ottimo personaggio. Live at the Roxy era uscito inizialmente come promozionale, poi è stato pubblicato a disposizione di tutto il pubblico, è stato registrato appunto a Roxy Theater chiaramente di Los Angeles il 14 giugno del 2001 e fra parentesi si può dire che Pete Yorn ama molto le cose dal vivo, ha pubblicato 5 album live, questo è il primo, e nel 2006 fece un tour in tutti gli Stati Uniti nel quale prima di suonare la sera nel locale apposito andava nei negozi di dischi, faceva quello che si chiama in store appearance e ha pubblicato tutte queste apparizioni negli in store, sono tutte acustiche, tutti mini album, 3 o 4 pezzi, massimo 5, e tutti molto interessanti, sempre diversi uno dall'altro chiaramente, e il problema è che costano veramente tantissimo. Comunque, a parte questo, la ciliegina sulla torta è la collaborazione fra Pete Yorn e Scarlett Johansson, la famosa attrice che prova anche lei a cantare come del resto l'ex premier dame francese, e nel 2009 e nel 2018 hanno pubblicato 2 album insieme che hanno avuto anche un discreto successo, non si sa bene se per merito di Pete Yorn o per merito di Scarlett Johansson, comunque questo è un altro discorso. Il pezzo appunto che ci siamo ascoltati è stato registrato il 14 giugno del 2001 a Los Angeles, Dancing in the Dark / Murray. Calmiamo un po' le acque, però rimaniamo in store appearance di cui parlavo prima, perché qui siamo alla Meiba Record Store, un locale che è il sogno di chi vi sta parlando, ma non solo mio, è un locale che è un'azienda, diciamo così, che è in 3 location, San Francisco, Los Angeles e Berkeley. Sono tutte e 3 bellissime, enormi, quella di San Francisco è fantastica, quella di Los Angeles occupa un intero isolato e addirittura ha un parcheggio sotterraneo privato solamente per i clienti del negozio, che in quella di Los Angeles è veramente una rarità. E loro spesso organizzano quelli che si chiamano showcase, che per pubblicizzare gli album e gli artisti che hanno pubblicato l'album probabilmente di recente. Ce ne sono diverse, non anche di Paul McCartney, molto forse, anzi la più famosa sicuramente, ma quella che ci andiamo ad ascoltare è ad opera di un duo, Joy Williams e Jean-Paul White, che si chiamava Civil Wars. È stato attivo dal 2009 al 2014 e anche se prima, già in precedenza, entrambi i personaggi, Joy Williams e Jean-Paul White, avevano una carriera solista con qualche successo. Dopo unirono le forze per 5 anni con 2 album in studio e 5 album dal vivo, di quale 2 solamente in digitale. E hanno avuto un grande grande successo negli Stati Uniti, hanno vinto molti awards per quel che contino questi premi, però non sono niente male, alla lunga un po' ripetitivi, un po' loffi, ma comunque sul corto raggio, diciamo, hanno veramente delle belle cose. Il brano che ci andiamo ad ascoltare fa parte di un mini album che si chiama, guarda caso, Live ad Amoeba, è scritto Amoeba. Ed è una cosa un po' particolare perché è una cover, capirete subito o quasi di cosa si tratta. Loro sono Civil Wars, 14 giugno 2011. What part of can they find this next song in? Where would it be? I think R&B. Yeah. In the back corner. So that's where you went looking for Beyonce earlier today, didn't you? It wasn't for me. Don't judge me. I'm not being judgy. She was more like a beauty queen from a movie set. I said, don't mind me, but do you mean that? Boy, who will dance on the floor in the row? She said, I am the boy who will dance on the floor in the row. She told me her name was Billie Jean. Every hair turn with eyes of dreams. Being the one who dance on the floor in the round. People always told me, be careful what you do. Ooh, don't go around breaking young girls' hearts. No. And my always told me, be careful who you love. Be careful what you do. The lie becomes the truth. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who plays that out the wind. But the kid is my She says, for 40 days and for 40 nights, well, I was on her side. But who can stand when she's in demand? Her schemes ain't playing love, 'cause we danced on the floor in the round. So take my strong advice. Just remember to always think twice. Oh, think twice. She told my baby to dance to 3, and she looked at me and showed a photo. Baby cried, his eyes were like mine. Oh no, 'cause we danced on the floor in the round. It happened, oh, much too soon. She called. me too, man. Billie Jean is not my lover. She just a girl claims that I am the one. But the kid's not my son. She says, so Billie Jean is not my she just a girl. Billie Jean is not my she just a girl. Billie Jean is not my Non so se Michael Jackson avrebbe gradito questa versione di Billie Jean, ma quella che hanno proposto i Civil Wars in quel della Meba di Los Angeles, Hollywood addirittura è specificato nella copertina, il 14 giugno del 2011. E conclude così il Record Today di oggi, che comprendeva brani dal 72 con i Chicago, Iggy Pop dell'81, CSI dal 1998, Pete Yorn dal 2001 e Civil Wars, appunto, buon ultimi, dal 2011. E prima di concludere con la novità che vi ho proposto quest'oggi, Bill Bruford's Earthwork, vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 all'incirca. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre naturalmente su Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica e nell'etere, con l'apposita app che potete scaricare dal sito radiocittafujiko.it. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Prima però vi dico che ritorna Bill Bruford, appunto, con i suoi Earthwork. Il brano si chiama Turn and Return ed apre questo splendido album più DVD che si chiama Live in Santiago. Ciao a tutti da Nevio. Yeah.